Voci dal giro. Ed eccoci, come detto, allo speciale sul Giro d'Italia, un giro che lascia la Danimarca con una vittoria involata dell'australiano Goss e una caduta che ha coinvolto Cavendish e la maglia rosa americana Finney. Classifica generale invariata e Ivan Basso soddisfatto della tre giorni danese. Tre tappe positive, nel senso che abbiamo ottenuto quello che ci aspettavamo, abbiamo fatto tutti un buon prologo. Nelle prime due tappe è andato tutto bene, anche se la mia squadra ha dovuto faticare molto per riuscire a tenere sempre le posizioni, cercare di evitare cadute e buchi nel finale. Questo per noi, usciamo da questa prima parte di giro all'estero rafforzati dal punto di vista psicologico e torniamo in Italia fiduciosi. Oggi giorno di riposo quanto mai utile prima della crono squadre. Da ieri sera il Giro d'Italia è italiano, un volo dalla Danimarca, destinazione Verona, da dove domani la Corsa Rosa riprenderà il proprio cammino. Dalla tre giorni danesi si torna con lividi, botte e gessi, tre giorni di corsa e due infarciti da voli e capitomboli. La foga delle prime volate, la voglia di farsi vedere, il desiderio di mettere subito in carniere qualcosa di importante e pesante, ma anche spallate, gomitate e cambi di direzione sono stati all'ordine del giorno. Ieri a farne le spese il campione del mondo in carica Mark Cavendish, travolto da Ferrari come una Ferrari, che cambia direzione e tira giù di netto la maglia iridata. Mancano solo 150 metri al traguardo, la volata è lanciatissima, la velocità superiore a 60 all'ora. Cavendish cade e travolge altri malcapitati. Tra quelli che ne fanno le spese anche la giovane maglia rosa Taylor Finney, che nel Veneto ci è cresciuto e gli piacerebbe tanto pedalarci con la maglia rosa sulle spalle, e alle prese con un brutto taglio al piede, spera di recuperare visto che oggi sarà riposo. Poi da domani nuovamente competizione, cronosquadre sulle strade di Verona, tra compagni di squadra con la speranza che non volino gomitati e cambi di direzione. Pieracusso Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Verona. Ed è tutto per questo speciale dedicato al Giro d'Italia. Di nuovo buona giornata. Voci dal Giro.